Ma dico di più, quando ognuno di noi fa la festa ai bambini e chiama l'animatore, No, adesso non l'animatrice, tiri fuori la festa ai no, bambini, voglio no. dire, gli paghi l'onorario o no? Ma come la festa ai No, bambini? Ma non che erano, non quando? erano feste per i bambini, quelle là. No, No, io non faccia paragoni parlo d'ambulanza. del concetto giuridico, non parlo di un paragone tra le due feste. Ah, Chi cioè fa lui, una ah, ho festa a capito la casa tesi. sua e Cioè loro chiama erano delle animatrici, l'animatore, erano delle animatrici dell'Arci. Ho capito, chi adesso ho chiama capito. l'animatore a casa per una festa di bambini, di Animatrici grandi, di erano. vecchi, in ospizio, dove che Sì. sia, chi va a fare l'animatore o lo Bellissimo. spettacolo? Rotondi, 2 punti, quelle erano delle Ma animatrici mi per una pare festa. abbastanza chiaro, nel Animatrici, senso chiaro. che erano persone che animavano la E festa questo sicuro, e la dal animavano, questo è punto di vista sicuro. artistico venivano poi pagate per quello che Per avevano fatto, ballare, chi per... ballava, chi Però cantava, chi... la tesi non è... sinceramente, che No, poi è uno una grande ricostruzione. Posso dire che è una grande ricostruzione?